un'altra Europa. 8 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa in diretta come ogni settimana per raccontarvi appunto l'altra Europa, quella delle storie, quella delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Un'Europa per ovvi motivi di attualità, di tragica attualità, al centro di tutte le notizie, di tanti ragionamenti, di tanti pensieri. L'attualità e la cronaca e gli aggiornamenti continui di Radio 24. Ovviamente, se ci saranno novità all'interno dell'ora, entreranno i colleghi del GR oppure alle 13 per sapere quello che sta succedendo in particolare in questi minuti a Bruxelles. Noi invece vi racconteremo oggi storie, ma non usciremo, tenteremo anche noi di portare il nostro contributo, soprattutto di pensieri ai fatti che stanno accadendo. Come sempre potete seguirci anche attraverso le nostre coordinate digitali Facebook e Twitter, il mio account personale @FedericoTaddia oppure @EuronetPlusR24 e ancora il portale del network Euronet Plus, network di Radio Europea, al quale abbiamo l'onore e il piacere di appartenere, euronetplus.eu, e ancora radio24.it, da dove poter riascoltare, scaricare la puntata e trovare tutti i nostri contributi extra. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo con la nostra Europa da Rovereto. Governments would feel much happier and would be much more satisfied if journalists were not asking for these documents, not asking questions. I'm happy that our work is important not only for me, for my colleagues and for Ukrainians. I'm happy that it's important for Europe and for the world. I think the biggest problem. La libertà di stampa, ma non solo, anche ragionamenti sui conflitti che dalle sue periferie colpiscono direttamente al cuore l'Europa, ancora le migrazioni epocali. Questi sono alcuni dei temi che verranno discussi oggi a Trans-Europa, il convegno internazionale organizzato per celebrare, festeggiare i 15 anni dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Con noi il direttore scientifico di Osservatorio Balcani e Caucaso, diamo il benvenuto a Luisa Chiodi. Ciao Luisa, ben ritrovata all'altra Europa. Ciao, ciao, grazie. La direttrice, dai, visto che... Direttrice, oh, scusami, certo. Allora, un convegno ricchissimo di spunti, di teste, anche di voci, un convegno la cui importanza viene anche amplificata dalla strettissima attualità. Cosa succederà oggi a Rovereto? Come dici, abbiamo provato a mettere reti di società civile, di intellettuali, di giornalisti insieme per ragionare su quello che stiamo vivendo, per rispondere alla paura che in questi giorni ci sta attanagliando, ma in generale per dare, aiutare con un ragionamento collettivo alla comprensione del mondo in cui viviamo, che è cambiato tanto negli ultimi 20 anni e davvero siamo molto disorientati, non solo di fronte al terrorismo internazionale, ma anche crisi ci ha spaventato a lungo, e il contesto politico dell'Unione Europea alla quale vogliamo dare un contributo di costruzione è stata pesantemente messa in difficoltà in questi anni. Noi quindi vogliamo ragionare collettivamente a partire da alcuni stimoli che l'Osservatorio lancia, e insieme a tutti questi studiosi, giornalisti, attivisti, e provare a dare così dei segnali chiari che esiste una società civile europea, uno spazio pubblico europeo che ha la sua da dire e dove sta forse la risposta a tutte queste sfide che abbiamo davanti. I Balcani sono da sempre, da 15 anni, il vostro punto d'osservatorio privilegiato per leggere, capire la contemporaneità europea. Oggi i Balcani cosa ci raccontano? Ci raccontano che non puoi lasciare degli spazi indefiniti dentro il cuore, la pancia dell'Europa, e quindi in qualche modo che dobbiamo così estendere anche a loro le garanzie di cittadinanza che abbiamo dentro lo spazio europeo, che il loro processo di integrazione è ormai insomma da definirsi. E i Balcani li abbiamo visti al centro dell'attualità internazionale quest'estate per via della rotta balcanica cosiddetta, cioè dell'afflusso dei rifugiati dalla Siria Siria e dall'Afghanistan verso l'Europa, e i Balcani sono in difficoltà gravissima ancora una volta, e non possiamo scaricare su di loro la responsabilità di gestire la crisi della Siria, e sono quindi di nuovo un po' una via di transito e anche un memento, un record, a seconda di quale lingua vogliamo usare, per la necessità dell'integrazione europea loro e nostra, cioè del nostro spazio politico, che deve dotarsi di capacità di risposta alle crisi. Quindi le crisi dei profughi non possono essere solo un problema italiano, nemmeno solo un problema serbo, sono in questo caso la crisi dei profughi, ma come tante altre questioni, sono questioni europee che vanno gestite insieme e risolte insieme. Quindi in questo senso i Balcani sono di grande attualità, non solo per quello che vi avviene, ma anche come un luogo che ti richiama alle tue urgenti necessità politiche di Unione Europea. Balcanicaucaso.org è il sito di riferimento per conoscere l'intero programma. Alle 14.30 l'apertura dei lavori, alle 15 la lectio magistralis del senatore professore Francesco Palermo, poi tre workshop paralleli dove appunto si parlerà anche della rotta balcanica, degli ultimi 20 anni dell'Unione Europea e della libertà d'espressione in Europa. Alle 17.30 una tavola rotonda conclusiva, e poi questa sera anche un momento di festa e di musica e di parole per appunto dire buon compleanno all'Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie davvero Luisa, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie a voi, speriamo davvero di festeggiare bene, di avere ancora tante occasioni di incontro con tanti della nostra grande comunità di lettori e di contributori. Luisa, arrivederci. Ciao Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Adesso in Europosit ci fermiamo per il traffico, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europosted. Tirocinio Corte Europea dei Diritti Umani. Ti piacerebbe svolgere un tirocinio nel campo dei diritti umani? La Corte Europea dei Diritti Umani è un'istituzione internazionale fondata nel 1959 che ha giurisdizione su casi di violazione dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione Europea sui diritti umani. La Corte è alla ricerca di tirocinanti volontari che vogliano sviluppare nuove competenze in materia di cooperazione internazionale e diritti umani. I candidati dovranno appartenere a uno dei Paesi membri del Consiglio d'Europa e dovranno avere un'ottima conoscenza di una delle due lingue ufficiali del Consiglio, inglese e francese. Per informazioni e candidature, visitate il sito scambieuropei.info entro il 28 novembre. L'altra Europa. Trovare nuovi modi, trovare nuove voci per narrare l'Europa è quello che qui all'Altra Europa cerchiamo di fare ormai da più di quattro anni, e in questo percorso cerchiamo anche noi di dare voce a chi si incammina in questo percorso, tantissime esperienze molto importanti, molto particolari, alcune piccole, veramente specifiche, però con grande creatività, altre più strutturate. L'idea è proprio questa, un problema dell'Europa è sicuramente nel comunicarsi, nel raccontarsi, nel narrarsi. E da questo stimolo parte una nuova sollecitazione che arriva direttamente dalla Scuola Holden di Torino. Ne parliamo con Martino Gozzi, direttore didattico della scuola stessa. Ciao Martino, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, ciao a tutti. Cosa vi siete inventati? Ma niente, l'hai detto bene tu. Noi ogni anno cerchiamo di mettere a fuoco una domanda che lanciamo agli studenti e a una serie di docenti, di amici della scuola, e nel corso dell'anno cerchiamo di metterla a fuoco. L'anno scorso la domanda riguardava Amazon, ci siamo chiesti se fosse il lupo mannaro o Babbo Natale, e quest'anno, come hai anticipato, la domanda è invece l'Europa. E l'assunto da cui siamo partiti, che in parte è anche una provocazione naturalmente, è che alla radice di tutti i problemi che in quest'anno sono, come dire, venuti a galla, esplosi, dell'Europa, ci sia un problema di storia, di narrazione, e cioè che manchi una storia condivisa nella quale un po' tutti possiamo riconoscerci e identificarci. Avete parlato di atto finale perché l'Europa è stata raccontata fino ad oggi e manca la voglia, manca la capacità di raccontare il secondo tempo, un nuovo tempo, o un terzo tempo, più che un secondo tempo di questa Europa. Ma sì, la sensazione è che stiamo tutti assistendo a un film che volge al finale e manca la spinta, manca l'intenzione, sembra mancare proprio la voglia di farlo ripartire. Mm-hmm. E l'altra sensazione è che in tutti questi mesi che hanno visto prima lo psicodramma del debito greco, poi la reazione scomposta e deprimente all'emergenza dei migranti, fino a questi attacchi, no? Al cuore, certo, del nostro continente, in tutti questi mesi si è mancata una voce al dibattito, cioè quella dei narratori, di coloro che raccontano storie. E guardando indietro, forse sono anni che i narratori, come dire, mancano all'appello. L'Europa sembra sempre di più un costrutto figlio di teorie di economisti, di politici, di sociologi, però appunto manca una narrazione che permetta a tutti noi di vedere nell'Europa qualcosa di più di un aggregato di paesi, no? Ma una comunità nella quale è possibile identificarsi. E quindi la nostra sfida, lanciata agli studenti e ai narratori però di tutta l'Europa, è quella di immaginare un secondo atto, sì, immaginare un sequel, un nuovo inizio di questo film, di questa storia. Rimettere al centro le storie vuol dire rimettere al centro le persone, questo almeno è quello che crediamo noi all'altra Europa. Martino, un'ultima domanda, così parlando per chi come noi lavora nell'ambito della comunicazione, mille volte ci siamo sentiti dire parlare di Europa non è cool, non è sexy, non tira, non piace, non buca. Qual è stata la reazione degli studenti alla parola Europa? Noi abbiamo lanciato questa sfida e rimesso l'accento sull'Europa per una coincidenza significativa proprio nei giorni in cui i media parlavano e raccontavano quello che succedeva a Parigi. E abbiamo avuto l'impressione che gli studenti abbiano sentito che il tema li toccava da vicino, anche se ancora non avevano messo a fuoco quanto l'Europa riguardi tutti noi, in fondo. Hai ragione. Rimettere al centro le storie significa rimettere al centro le persone. E l'Europa, in fondo, è fatta prima di tutto da un insieme di cittadini. scuolaholden.it, da lì si potranno leggere e seguire tutti i contributi nei prossimi mesi per questo nuovo racconto dell'Europa. Grazie a Martino Gozzi, direttore didattico della Scuola Holden. Ciao Martino, buon lavoro. Grazie Federico, a presto, ciao. Ciao, ciao. Europost-it. Chuck si guida. A tutti i piccoli piloti e agli appassionati di strade, la Polizia di Milano promuove la nona edizione di Chuck si guida, il film festival sulla sicurezza stradale dedicato a tutte le scuole primarie e secondarie italiane. Lo slogan di quest'anno è «Rischi tutto?» ed è declinato in tre modi. Conseguenze di alcol e droghe alla guida, la guida consapevole in bici, scooter e auto, l'attraversamento pedonale in sicurezza. I partecipanti dovranno realizzare uno spot sulla sicurezza stradale utilizzando tecnologie multimediali. I vincitori saranno premiati nella giornata conclusiva del concorso, l'8 aprile 2016. Per partecipare basta iscriversi entro il 26 febbraio 2016 ed inviare il proprio spot originale entro il 4 marzo 2016. Modalità sul sito comune.milano.it. Every year, roughly one third of all food produced for human consumption is lost or wasted. Too many food products go to waste, which are still consumable, but perhaps not perfect, too close to expiration date, or simply thrown away for convenience. Foodly provides a solution where professionals can donate or sell these products. Ridurre, riutilizzare, riciclare sono le tre R protagoniste della settimana europea per la riduzione dei rifiuti che inizia oggi fino a domenica prossima, 29 novembre, un'iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti nel corso di una sola settimana, una settimana però ricchissima di eventi in tutta Italia, www.ewwr.eu. Questo è il sito ufficiale per conoscere tutto ciò che verrà promosso in questi giorni per parlare di rifiuti. Abbiamo scelto, anche se abbiamo pochi minuti, di fare una carrellata di alcuni eventi promossi qua in Italia. Andremo appunto a scoprire dai protagonisti quello che combineranno in questi giorni. Partiamo con Marco Niro dell'Agenzia per l'Ambiente di Trento, coordinatore del progetto Eco Ristorazione Trentino. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno, cosa avete ideato per questa settimana dei rifiuti? Ma noi abbiamo ideato un concorso che si intitola Mangiare e non inquinare, il tuo menù a impatto zero. Sì. E in pratica lanciamo una sfida che è quella di dimostrare che una cucina intelligente, diciamo, può abbattere sia le emissioni che i rifiuti, senza però per forza dover scegliere tra sacrificare il pianeta o il piacere di stare a tavola. È un concorso, di, è un concorso di ricette proprio? Sì, sì, sì, chiediamo ai partecipanti di elaborare un menù a basso impatto ambientale composto da almeno tre pietanze. Sì. E in questo caso non ci descriveranno solo i piatti, ma ci descriveranno anche le tecniche di cottura e qualsiasi altro elemento, quindi la filiera degli alimenti, eccetera, riesca a convincere la giuria che la proposta non è solo buona, ma è anche amica dell'ambiente, perché risparmia energia, materia e riduce rifiuti. Ecoristorazionetrentino.it per tutte le informazioni. E quando avverrà tutto ciò e ci si può ancora iscrivere? Ci si può ancora iscrivere, è sufficiente andare sul nostro sito ecoristorazionetrentino.it e inviare il menù entro martedì 24 novembre 2015, basta una semplice email con il menù allegato. Fantastico, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi. Mentre andiamo ora da Paola Iaconisi, presidente dell'Associazione Foreste Urbane. Ciao Paola, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, ciao, buongiorno. Allora, si parla di rigenerazione di computer, vero? Sì, sì, sì. Officina Traceware è un'officina temporanea gratuita che abbiamo allestito per riparare e rigenerare hardware dismessi. Quindi vecchi PC usati o parti di esse che sono ancora funzionanti e che possono essere assemblati nelle loro componenti, riparati e resi di nuovo funzionanti e utili sostanzialmente. L'idea poi è di decorare questi computer insieme ai ragazzi del quartiere, della città, e rimetterli a disposizione della comunità, dei ragazzi e delle famiglie che non possono permettersi di comprarne uno. Tutto ciò avviene a Copertino, quindi siamo in provincia di Lecce. La pagina Facebook di Foreste Urbane è il punto di riferimento per avere tutte le informazioni. Quindi basta arrivare lì col proprio computer non più funzionante e voi o lo riparate o lo destinate ad altri utilizzi. Allora, i computer devono essere ancora funzionanti, nel senso che se qualcuno ha un monitor o un'unità centrale o un computer portatile, può portarlo da noi e i tecnici di Associazione Talento Open Source e Multimedia Mind, che ci stanno supportando tecnicamente in questa iniziativa, li riparano e installano dei software open source, grazie ai quali insomma è possibile rendere nuovamente fruibili questi computer. Perfetto, la sfida è capire quanti chilogrammi di materiale elettronico non utilizzato riuscirete a riparare, giusto? Questo è un po'... Esattamente, esattamente. Proprio per capire insomma in che modo possiamo contribuire alla prevenzione della produzione dei rifiuti. Certo, rifiuti sono molto particolari, quelli elettronici, lo ricordiamo, certo, perché c'è ancora molto confusione. Brava, esatto. Esattamente. Infatti, cioè, diciamo, noi partiamo dal presupposto che poi tutto ciò che diventa rifiuto in qualche modo deve essere gestito, raccolto, trattato, e implica un dispendio di energie e di costi, e soprattutto nel caso dei rifiuti elettronici. Poi teniamo in considerazione che la tecnologia avanza, si aggiorna ad un ritmo incalzante e ci costringe in certo senso a seguirla, no? Ad aggiornarci, a buttare via tutto ciò che ci appare vecchio e inutilizzabile, ma che in realtà non lo è. Nella logica del trashware invece non è diciamo il software che determina l'hardware che io utilizzo, ma il contrario, per cui se io ho a disposizione un apparecchio elettronico, un PC, installo il software che è compatibile adesso, sì, e in qualche modo riesco a renderlo nuovamente fruibile. Ecco perché poi è importante anche l'esistenza dei sistemi operativi open source che sono a disposizione sempre in tutte le loro versioni. Un grazie a Paolo Iaconisi, presidente dell'Associazione Foreste Urbane. Buon lavoro Paola, ciao. Grazie, grazie a voi, salve. Continuiamo a parlare della settimana per la riduzione dei rifiuti, lo facciamo subito dopo la pubblicità, un Europost-it, e poi rientriamo subito in diretta con un'altra esperienza. Europost-it. Science for Refugees cerca scienziati. La Commissione europea ha lanciato l'iniziativa Science for Refugees, dedicata ai richiedenti asilo, ai rifugiati specializzati nel settore scientifico e ai ricercatori. Si tratta di una misura che permetterà di avviare il processo di conoscenza tra i rifugiati e richiedenti asilo in possesso di un curriculum scientifico e le istituzioni scientifiche che volontariamente si dichiarano Refugee Welcoming Organizations. Science for Refugees è accessibile ai rifugiati e alle istituzioni tramite Euraxis, portale ricercatori in movimento. L'iniziativa, che offre l'accesso ad una vasta gamma di informazioni e servizi di sostegno ai ricercatori che desiderano perseguire le loro carriere di ricerca in Europa. Per informazioni, cercate la pagina dedicata a Science for Refugees sul sito della Commissione europea, ec.europa.eu. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24 per seguirci anche su Twitter e Facebook, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. In questo momento stiamo parlando della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, inizia oggi, termina domenica prossima, tantissime iniziative, www.ewwr.eu, il sito per conoscere l'intero programma. Noi abbiamo selezionato una manciata di proposte tra le tante in calendario e ve le stiamo raccontando. Ora andiamo a Milano con Donatella Pavan, presidente dell'Associazione Giacimenti Urbani. Ciao Donatella. Ciao Federico, allora, buongiorno a tutti, buongiorno. E complimenti per la trasmissione, molto interessante. Grazie, noi li incassiamo sempre volentieri. No, lo sguardo europeo permette di essere ottimisti e di vedere le cose in modo più dall'alto. Un po' più largo, esatto. Sì. Allora Donatella, dal 27 al 29 novembre è un po' il cuore della vostra iniziativa Trasformare i rifiuti in risorsa a Milano, di cosa si tratta? Allora, Giacimenti Urbani è un evento che si svolge in Cascina Cuccagna, Milano e con Cascina Cuccagna, sì, e comprende diversi piani di lavoro, nel senso che si presentano delle realtà industriali che lavorano sull'economia circolare, ma anche delle realtà artigianali, delle scuole, diversi cittadini che fanno delle cose legate all'economia circolare. In particolare, la cosa che io segnalerei è cos'è l'economia circolare? L'economia circolare è l'economia che mette al centro la sostenibilità del sistema e non più la materia che arriva ad essere prodotto indipendentemente dalle conseguenze. Sì. Nell'economia circolare non esistono scarti, ma esistono risorse. E proprio partendo da questo principio noi abbiamo organizzato una mostra che si chiama In rotta verso l'economia circolare, sei un cittadino consapevole, in collaborazione con Matrec, che è un osservatorio dei prodotti e dei materiali sostenibili, sì, per cui presentiamo tutta una serie di materiali che nascono dal riciclo, ad esempio la piastrella che ha una componente di olio di stanza, piuttosto che la lana come materiale isolante, piuttosto che la tifa che diventa è una pianta che diventa parete per le case. Dopodiché presentiamo tre esempi importanti di tre realtà di prodotti industriali che sono quello del ciclo degli abiti, per cui c'è il CONAU, sì, il Consorzio Nazionale degli Abiti Usati, che mostra come il 50% degli abiti che vengono dismessi vengano recuperati, si trasformano in un filato che si chiama filato rigenerato e dal filato rigenerato nasce il cardato rigenerato. Questo per dire che quando il consumatore legge in etichetta che il materiale è rigenerato, è un valore aggiunto, non è un disvalore, è un valore aggiunto perché vuol dire che non andiamo a intaccare le risorse del pianeta che sono già scarse. Insomma, hai dato una bella immagine proprio del concetto di economia circolare, no? Che è quella del muoversi, deve essere anche creativi, no? c'è una sana creatività, che è una creatività non, in questo caso non solo artistica, ma appunto che porta a nuovi tipi di sostenibilità. Esattamente, nuovi tipi di sostenibilità, e che, cioè, è proprio ripensare la nostra vita quotidiana, sia come cittadini che come lavoratori, che come impresari, che come istituzioni, cioè, ognuno deve fare un po' la sua parte. Poi abbiamo anche noi ci occupiamo di RAE perché ci sarà HP assieme all'IRP, che è il consorzio paneuropeo che recupera i RAE, per cui si mostra come anche un cellulare destrutturato può dare dei materiali preziosi, l'oro, il coltan, l'argento, e andando sempre anche lì a ridurre l'impatto. Abbiamo poi il ciclo del sughero con un'azienda che si chiama Amorim Cork Italia, che è una multinazionale del sughero che fa tappi, leader del mercato, che si è inventata il progetto etico. In Italia hanno creato una rete capillare di raccolta del sughero. Questo sughero viene raccolto a sua volta da delle associazioni che lo conferiscono ad Amorim. Amorim riconosce a queste associazioni un tot, tritura i tappi e adesso fa un pannello di sughero da tappi di riciclo che diventa un materiale per l'isolamento termico e acustico da esterno. Perfetto. Questi sono degli esempi. Certo, esempi concreti. Giacimentiurbani.eu dal 27 al 29 novembre a Cascina Cuccagna a Milano, e anche questa appunto una delle tante iniziative promosse in questa settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Ciao Donatella, grazie, buon lavoro. Grazie mille Federico, grazie a voi. Well, I think for the World Forum for Democracy we have to look at the actual name, which is World Forum for Democracy. And of course, if you look at these three different nouns, you cannot have a forum without the social media, especially in today's world. If you have a world, the quickest way is actually to make a community is to go through social media. Then if you have democracy, social media and the virtual world is where you actually make this kind of new democracy. So for the World Forum... Libertà e controllo, libertà e controllo per una risposta democratica. Questo è stato il tema principale della quarta edizione del Forum Mondiale della Democrazia, che si è tenuto a Strasburgo dal 18 al 20 novembre. Oltre 1500 partecipanti appunto a questo importante laboratorio, incontro, convegno, confronto. L'Italia era rappresentata solo dalla città di Palermo, in particolare da Adam Darashua, medico e presidente della Consulta delle Culture di Palermo, che abbiamo il piacere di ospitare. Credo tra l'altro che in questo momento sia ancora in Francia, forse a Parigi. Buongiorno Adam, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. So che era in viaggio, era in treno, è arrivato? Sì, sono a Parigi, stiamo aspettando il volo per rientrare in Italia. Beh, l'attualità mi obbliga a questa domanda: qual è il clima, qual è l'umore in questo momento a Parigi? Allora, io sono positivamente sorpreso, perché sia a Strasburgo sia a Lione, dove ho fatto tappa, sia oggi a Parigi, il clima è tranquillo, è un clima pacato, di serenità, di voglia di andare avanti, e soprattutto di non esiste alcuna voglia di cedere alla paura, che è l'obiettivo di chi ha attaccato la Francia una settimana fa. Mm-hmm. Insomma, parole importanti, una testimonianza importante. Adam, come sono andate queste giornate? Intanto, come mai solo Palermo era presente a questo forum mondiale? Ma il forum mondiale c'erano tantissime presenze, no? Anche fuori da Palermo. Palermo invece è stata l'unica città selezionata per partecipare a un giorno in questo convegno, il 20, in cui si è tenuto una sorta di hackathon, una sorta di riunione fiume fra tantissime città e tantissimi esperti che hanno avuto il compito di discutere e di trovare, innovare nuovi strumenti di democrazia. E lì Palermo era l'unica città fra le tante città selezionate. Mm-hmm. Qual è il significato di questo Forum Mondiale della Democrazia promosso dal Consiglio d'Europa? Ci si confronta proprio su quella che è su nuove forme di partecipazione? Sì, soprattutto si è tenuto questo atto un giorno venerdì giorno 20, ma nelle altre due giornate c'erano tantissime sezioni, tantissimi laboratori, c'erano tantissimi attivisti da tutto il mondo, c'erano ex presidente, ex primo ministro della Romania, del Sudan, dell'Ucraina, c'erano vari europarlamentari, anche italiani, c'era Cecil Chian, c'erano tanti altri. E certamente abbiamo portato la nostra voce, la nostra esperienza a Palermo, di una città che cerca tramite la partecipazione politica degli immigrati di trovare a costruire una città interculturale in cui gli immigrati vengono, come dire, inseriti per diritto in quanto cittadini a pieno titolo. Ma la risposta al terrorismo sarà una riduzione della nostra libertà e in parte anche di queste forme di democrazia? Ma certamente chi ha organizzato il Forum per la Democrazia a Strasburgo non aveva previsto quello che è successo venerdì scorso, quindi diciamo il primo giorno soprattutto era molto importante mandare un messaggio forte che la democrazia è più forte del terrorismo e la libertà è un bene comune che va sempre preservato e va sempre conservato. Sono stato molto, devo dire, piacevolmente sorpreso dalla linea tenuta dagli oratori, soprattutto dai politici francesi che erano qua, che hanno addirittura hanno sempre dato un messaggio della forza della democrazia, hanno condannato soprattutto l'attacco indiscriminato a tutti i musulmani, hanno spiegato pure loro qui in Francia assolutamente non è accettabile accusare tutta la comunità islamica di un crimine fatto da due o tre persone, hanno stigmatizzato alcune reazioni in Europa, fra cui anche un giornale italiano che ha dato del bastardi a milioni di persone, qui anche la destra di Le Pen ha rifiutato questo attacco e questo diciamo mi ha molto rincuorato, ma ha assicurato che l'Europa è molto forte, è un continente democratico che rispetta i diritti dell'uomo e questa è la sua vera forza. Adam, grazie davvero per questa testimonianza. Ricordiamo comune.palermo.it, il sito della consulta delle culture della città di Palermo, invitata appunto a partecipare a questa giornata al Forum Mondiale della Democrazia a Strasburgo, il cui sito invece è quello del Consiglio d'Europa, www.coe.it. Buongiorno Adam, buon viaggio, grazie. Buongiorno, grazie mille, buongiorno. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. European Youth Event 2016. Anche quest'anno sono ufficialmente aperte le iscrizioni allo European Youth Event 2016, evento dedicato a migliaia di giovani europei tra i 16 e i 30 anni che il 20 e il 21 maggio 2016 avranno l'opportunità di visitare il Parlamento Europeo di Strasburgo e partecipare ad una serie di incontri con eurodeputati e protagonisti della vita dell'Unione. Il tema di questa nuova edizione sarà Insieme per il cambiamento. In programma, oltre 50 attività che daranno la possibilità ai giovani in visita di discutere importanti argomenti di attualità direttamente con i protagonisti della vita politica europea. Per maggiori informazioni visitate il sito europarl.europa.eu/european-youth-event. L'evento accetta solo iscrizioni di gruppo. La scadenza per inviare la propria domanda è il 31 dicembre 2015. L'altra Europa. A 26 anni è pugliese, è stato premiato ad Helsinki come miglior giovane imprenditore del web dell'anno alla terza edizione di Europioneers 2005, iniziativa promossa dalla Commissione Europea. Si chiama Domenico Collucci, è cofondatore di Next2Me ed è qua con noi. Ciao Domenico, benvenuto all'altra Europa. Ciao Federico, grazie per l'invito, grazie a tutti, buongiorno. Com'è? Come ci si trova come miglior giovane imprenditore europeo? È una bellissima soddisfazione, poi vi ringrazio anche per la colonna sonora, insomma, di questo fondo, che è un po' quello che è il nome della nostra startup, della nostra azienda. Benissimo, tra l'altro poi l'unico italiano dopo tre concorsi, insomma tre competizioni, a essere premiato dalla Commissione Europea. Allora, il tuo progetto, insomma, già da diversi anni è al centro dell'attenzione per la sua qualità, insomma hai già ricevuto diversi riconoscimenti. Raccontaci qual è l'intuizione e come si sta sviluppando. Allora, l'intuizione è comunque, la base è molto semplice, così come tutte le idee geniali. Eravamo quindi all'interno di un grande centro commerciale e ci domandavamo se effettivamente in questi ambienti di grandi dimensioni potesse esistere una sorta di navigatore che ci accompagna verso le destinazioni o verso i prodotti o verso quindi i punti di interesse. Sapevamo che il GPS comunemente utilizzato nelle nostre auto non funzionava all'interno di un ambiente chiuso, e da lì è nata una lunga ricerca che poi ci ha permesso di realizzare questo prodotto, tra l'altro anche brevettato, che permette quindi a tutti noi utilizzatori di uno smartphone orientarci in questi grandi ambienti. L'idea sostanzialmente è questa, alla base, molto semplice. Mm-hmm. Il primo prototipo, se non erro, è stato presentato al Salone delle Startup nel 2013, quindi sono passati un paio d'anni. Sì, esatto. Un paio d'anni dove non vi siete cullati dalla vostra bella idea, ma anzi, tutt'altro. Tutt'altro, sì, abbiamo vinto il Web Summit lo scorso anno, un'altra competizione per startup abbastanza prestigiosa a Dublino, il Place a New York, una grande conferenza dove eravamo noi piccolissimi con General Electric e Cisco, e poi abbiamo da subito cercato quindi altro capitale che permettesse di dar vita comunque a questa idea. L'idea conta, ma comunque ha una piccolissima percentuale, tutto il resto sono le persone, la voglia comunque di crederci in quello che si fa, e poi bisogna comunque cercare dei finanziamenti, dei capitali per poter far strada, insomma. Certo. Domenico, un'idea, competenze informatiche, spirito imprenditoriale, in tutte queste componenti, per te e per voi anche, per i tuoi soci, l'Europa cosa ha rappresentato e che contributo reale vi ha dato? Allora, sì, hanno selezionato quella che è la nostra idea, soprattutto per l'ambito di della nuova programmazione europea, e quindi ci sono importanti investimenti sul campo dei trasporti. È piaciuta soprattutto perché la vorrebbero vedere installata in quelle che sono le metropolitane o in tutti quegli luoghi di grande aggregazione, per permettere a turisti, visitatori, anche gli stessi abitanti della città, poter fruire di una serie di informazioni che prima erano scollegate. Quindi immaginate di vederlo funzionare all'interno di una metropolitana e suggerirvi qual è il museo più vicino o suggerirvi qual è il luogo di attrazione più vicino. Di aggregatore quindi di tutte queste altre informazioni. La motivazione principale per cui l'hanno premiato è stato per questo. Mm-hmm. Next2me.net è il sito ufficiale del progetto, oppure il sito del premio è europioneers.info. 606 candidati, ne sono stati selezionati 60, e appunto i vincitori delle tre categorie. Domenico, hai dato un'occhiata anche agli altri progetti? Cioè, hai visto qualche idea che avresti voluto avere tu? Sì, ho dato, i 600 progetti sono tutti abbastanza validi. Ovviamente una delle priorità per quanto riguarda la selezione era che il progetto doveva avere già un prodotto e quindi doveva già generare del fatturato, quindi non si parlava di prototipi o di cose più early stage, quindi si parlava di qualcosa di più formato. Quindi in questo caso hanno preferito premiare quindi società che avevano già un mercato, quindi già dei clienti, per passare più al concreto. Certo. E un'ultima domanda, Domenico, dalla provincia di Bari a Helsinki c'è un sacco di strada, cosa significa per un giovane come te, come voi, rimanere comunque nel sud d'Italia a portare avanti questa scommessa? Sì, è una doppia scommessa, infatti, perché comunque il sud sta dando una chiara risposta che ci sono talenti, persone che comunque, che se si mettono in gioco, portano dei risultati. Poi tra l'altro rispondiamo a una classica domanda che tutti ci fanno: ma com'è possibile che una tecnologia così innovativa possa proprio nascere in Italia, tra l'altro anche al sud? Perché siamo sempre abituati a vedere le idee geniali dall'altra parte dell'oceano, invece in questo caso diamo una chiara risposta che anche qui in Italia ci sono altrettanti prodotti innovativi e che vengono quindi premiati, tra l'altro. Mm-hmm. Next to me mi sembrava il nome ideale anche per questo tuo ultimo messaggio. Grazie davvero, Domenico, in bocca grazie al lupo, te, complimenti. Grazie. Ciao. Buona giornata. E con Domenico Colucci, vincitore di questo premio, chiudiamo la puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Miriam Lucchetti, a Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata, Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato oggi in assistenza dall'altra parte del vetro. Radio24.it è il nostro sito da dove poter scaricare la puntata e trovare dare tutti i contributi extra. Se volete contattare direttamente la redazione, la mail la conoscete, l'altraeuropa@radio24.it, oppure Federico Taddia, mi trovate sui social. Ancora grazie, ancora buon sabato, ciao. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.